Salvadanaio. Le 12:13:34, bentrovati da Valentina Furlanetto a questa nuova puntata di Salvadanaio, un inizio settimana. La settimana scorsa tra l'altro si è chiusa con la soddisfazione sportiva per la vittoria della nazionale sulla nazionale tedesca, ma anche con la soddisfazione tutta italiana personale del premier Mario Monti per le prime decisioni prese dal vertice dei capi di Stato e di Governo nella zona euro che si è tenuto a Bruxelles. Questa mattina ci siamo alzati un po' depressi per la sconfitta a Kiev e anche che per la vittoria di Bruxelles di Mario Monti, che ci è apparsa forse sotto una luce meno fulgida o forse più razionale. È stata una vera vittoria o bisogna aspettare, come dicono i molti osservatori, il 9 di luglio, quando si riuniranno i ministri delle finanze, quando ci saranno più che altro i dettagli, le linee guida di questo fondo salvastati e i dettagli di quello che è accaduto tra giovedì e venerdì a Bruxelles. I 17 hanno deciso di modificare, lo sapete, nella sostanza il modo in cui vengono utilizzati i fondi europei di stabilità finanziaria, tra le altre cose venendo incontro in parte alle richieste italiane in merito a quello che è stato definito scudo anti-spread. Venerdì risposta molto positiva da parte dei mercati, questa mattina un avvio un po' tiepido, come avete sentito se avete ascoltato questa mattinata a Radio 24 nei nostri appuntamenti nei GR e negli appuntamenti di borsa. Poi le borse in realtà hanno imboccato la strada del rialzo deciso, ora sono un po' più tentennanti, ma insomma una giornata positiva per ora, anche per quanto riguarda lo spread che al momento è a 420, però era sceso fino a 406 e ci aveva fatto ben sperare. Ma insomma la puntata di oggi parla di questo, del vertice europeo, di questo summit, cosa è successo, è veramente una vittoria, cosa ci si deve attendere ora per i mercati, quali sono gli scenari che abbiamo davanti a noi. Ne parliamo questa mattina con alcuni ospiti che sono qui con me, che ringrazio molto per essere presenti. Carlo Benetti, Market Research and Business Innovation di Swiss and Global Asset Management SGR. Buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati. Abbiamo Maria Paola Toschi, Market Strategist di JP Morgan Asset Management. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti. E Angelo Drusiani, responsabile gestioni Banca Albertini SITS. Buongiorno. Buongiorno. Allora, questi ospiti che abbiamo il piacere di avere con noi potranno darci qualche ragguaglio in più su come è andata venerdì, su quello che accadrà soprattutto d'ora in poi, da qui al 9 e dopo, quando avremo i dettagli, e si sa che il diavolo sta nei dettagli. Potete fare delle domande se non vi è chiaro qualcosa, se avete dei dubbi in merito alle decisioni che sono state prese nel summit, se avete anche delle vostre idee su quello che è accaduto e potrà accadere, all'800 24 0024, oppure via sms al 349 238 666, oppure via Facebook. Siamo su una pagina Facebook che ovviamente trovate sotto il nome Salvadanaio. Cerchiamo di capire qualcosa di più rispetto a quello di cui andiamo a parlare con questa scheda che è stata redatta da Marco Lombardo. Via libera al patto per la crescita e l'occupazione. Accelerazione sull'unione bancaria, intesa sui meccanismi anti-spread, accordo sugli aiuti diretti alle banche spagnole. Sono questi i principali risultati raggiunti dal vertice di Bruxelles, che ha visto riuniti alla fine della scorsa settimana i capi di Stato e di Governo della zona euro. I principali nodi sono stati sciolti nel corso delle riunioni fiume svoltesi nella notte tra giovedì e venerdì, e proprio mentre in Italia si festeggiava il successo calcistico nella semifinale degli europei contro la Germania, non poche soddisfazioni se le è tolte il nostro presidente del Consiglio, Mario Monti. Per spezzare il circolo vizioso tra banche e debito sovrano è stata imboccata, come richiesto da Roma e Madrid, la strada della sorveglianza unica sugli istituti di credito, affidata alla BCE, e della possibilità, per il Fondo Salva Stati, di procedere direttamente alla ricapitalizzazione delle banche. I leader dei 27 hanno dato il via libera anche al Patto per la crescita e l'occupazione, un pacchetto di misure che individua risorse per circa 120 miliardi di euro, da utilizzare per stimolare lo sviluppo economico. Il vertice ha inoltre chiesto di fissare una roadmap e un calendario preciso per procedere verso una vera unione economica e monetaria, e ha prospettato la possibilità che un gruppo di almeno 9 paesi dell'Eurozona possa procedere verso l'adozione entro l'anno di una tassa sulle transazioni finanziarie, ricorrendo a una cooperazione rafforzata. Decisioni festeggiate dai mercati, con brillanti chiusure nella serata di lunedì per tutte le piazze europee. In prima fila il più 5,35% di Madrid e il più 6,43% di Piazza Affari. E allora grande attesa per l'apertura di oggi, chiaramente per l'andamento di oggi dei mercati, e vediamoli subito. FTSE MIB più 0,18%, FTSE All Share più 0,18% anche lui, Francoforte in rialzo dello 0,84%, Parigi dello 0,93%, Londra più 0,51%, come dicevamo una buona giornata in borsa, anche se non c'è l'entusiasmo chiaramente di venerdì, ma era abbastanza scontato. Dicevamo lo spread in ribasso, adesso è intorno a 421, dicevamo è sceso questa mattina fino a toccare 405, e facendoci ben sperare, lo dicevamo prima della messa in onda, che scendesse sotto i 400 punti. Staremo a vedere in giornata. Tra i titoli, i temi di oggi sono molti. Il migliore del listino principale è Prismian più 3,24, poi Tenaris più 2,83%, Monte dei Paschi più 2,75%, fra i cali Telecom Italia la peggiore meno 1,35%, Enel Green Power meno 1,28%, A2A meno 1,09% in questo istante. Giornata negativa ad esempio per Fonsai nel giorno del raggruppamento delle azioni nel rapporto di un nuovo titolo ogni 100 posseduti. Un'azione Fonsai vale 91,4 euro. Oggi si terranno i CDA di Fonsai e dell'azionista Premafin per rispondere ad alcuni rilievi posti da Consob e ISVAP, sempre in relazione al progetto di integrazione con Unipol. Poi in rialzo Atlantia, questi i temi più grandi della borsa. Dopo il più 10% segnato nelle ultime due sedute, a trainare il titolo la finalizzazione di una serie di accordi in Sud America che confermano l'ulteriore sviluppo del business. E poi Fiat, che registra una performance inferiore all'indice di riferimento nel giorno in cui verranno comunicati i dati sulle immatricolazioni di giugno in Italia. Tra l'altro, per quanto riguarda l'Europa, i bancari oggi sono il comparto che guadagna il 2%, insomma sembrano beneficiare proprio del via libera alla ricapitalizzazione delle banche. Euro 1,26,18 sul dollaro. Questo un po' per toccare un po' tutti i temi, ma andiamo un po' più nello specifico con i nostri ospiti. Carlo Benetti, cosa ci si deve aspettare? Com'è andata venerdì in rispetto ovviamente a quello che ci aspettiamo dai mercati? Oggi abbastanza bene, ci eravamo sentiti questa mattina presto, erano intorno alla parità, ma insomma sembrano decisamente migliorare. Sì, beh, venerdì i risultati del vertice di Bruxelles sono stati un po' la bibita ghiacciata di cui si ha bisogno in queste giornate di caldo particolarmente intenso. Quindi la reazione dei mercati ha incorporato quelle buone notizie. In effetti, e la scheda trasmessa qualche istante fa ha detto con chiarezza quali sono stati gli elementi importanti, direi che meritano di essere sottolineati due grandi novità che i mercati hanno apprezzato, e anche questa mattina tutto sommato, anche se la seconda bibita dà meno ristoro della prima, hanno apprezzato, e cioè il fatto che il vertice cominciava senza un documento predisposto, quindi in effetti il risultato è stato inatteso, non c'erano delle draft da ratificare, ed è emersa con chiarezza la volontà politica dei leader europei a non lasciare a metà strada il progetto dell'integrazione fiscale, politica e anche bancaria, appunto. Quindi questo è il primo grande risultato, la definizione di una volontà politica dichiarata. Il secondo, tra le cose tecniche che appunto sono state ricordate prima, però l'avere separati i destini, gli esiti delle crisi di liquidità delle banche dai destini del debito pubblico. Questo è stato importante con quell'accesso al fondo salva stati, che anche se non incorpora quell'automatismo che forse l'Italia, il presidente Monti avrebbe preferito, comunque va nella direzione di agevolare queste risorse. Quindi direi che i mercati venerdì e ancora oggi abbiamo motivo di essere un po' più ottimisti sul percorso futuro rispetto a quanto eravamo soltanto pochi giorni fa. Maria Paola Toschi condivide? Ci sono delle osservazioni che condivide? Condivido i commenti fatti, aggiungerei alcune considerazioni. E la reazione dei mercati è stata molto forte perché probabilmente l'esito, il risultato del summit è stato superiore alle attese, ma metterei in evidenza alcuni aspetti in particolare. In primo luogo è emersa ancora una volta la convinzione che l'Europa sia un progetto troppo importante per rischiare che ci siano situazioni che lo possano compromettere, ma in particolare è emerso che la presenza di nuovi leader che sono diciamo usciti dalle recenti elezioni e che stanno contribuendo al processo di rilancio dell'Europa effettivamente sta creando qualcosa di molto diverso rispetto a quello che eravamo abituati a vedere nei summit precedenti. È emerso probabilmente un contesto diverso dal diciamo dualismo che prevaleva in precedenza e ovviamente questo ha messo in evidenza che c'è un contesto più ampio, più aperto a soluzioni e quindi un contesto che può essere più favorevole proprio al risultato di un rilancio dell'area euro. Ma metterei in evidenza anche un altro aspetto molto importante che è legato al fatto che da questo summit è emersa anche la possibilità e la volontà di introdurre delle misure di breve termine molto importanti, per esempio legate proprio al cosiddetto salva spread, che sono fondamentali perché mettono i paesi più fragili, tra cui anche l'Italia e la Spagna, che stanno portando avanti delle misure strutturali molto importanti, di non essere, compromessi, cioè queste misure non siano compromesse da questo benedetto spread, da questi costi del debito che sono estremamente elevati e che alla fine rischiano proprio di annullare gli effetti e i risultati degli sforzi che questi stati stanno facendo. Quindi da un lato mantenere uno stretto controllo delle misure di rigore, delle misure di austerità, sebbene anche insieme a delle misure di rilancio della crescita, però dall'altro lato cercare anche di creare un contesto di stabilità di mercati e quindi non lasciare questi paesi esposti alla speculazione e cercare di trovare una soluzione anche di breve termine per allentare questa pressione soprattutto sul costo del debito. Queste situazioni, unitamente ovviamente a quella che ha messo in evidenza il collega, stanno creando maggiore ottimismo in generale e una aspettativa di un contesto dei mercati più stabile che naturalmente può essere fondamentale per portare avanti in maniera più equilibrata e anche per guadagnare tempo proprio per realizzare le misure straordinarie che molti paesi stanno implementando. Drusiani, siamo in attesa però di un altro appuntamento importante il 9 di luglio perché i dettagli ancora non ci sono di questo accordo di venerdì scorso. Forse abbiamo cantato vittoria troppo presto? No, cantato vittoria troppo presto non credo. A me è quello che piacerebbe potesse accadere che la Banca Centrale Europea possa somigliare sempre più alle grandi banche anglosassoni. Grandi banche anglosassoni che, intervenendo direttamente sui titoli di Stato, acquistandoli a man bassa, hanno evitato la crisi che sta attraversando l'area euro in questo periodo. Mi rendo conto che sarà un passaggio delicato, difficile, perché la Germania non è assolutamente d'accordo che possano andare avanti queste situazioni per ovvie ragioni, perché dice noi costa poco, non interessa intervenire, non vogliamo spendere soldi in questa maniera. Però sicuramente credo che la prospettiva futura possa essere analoga a quella che sono le banche centrali anglosassone, a meno che non si voglia che l'area euro salti, ma non mi sembra che questa sia l'ipotesi. Quindi sicuramente da qui al 9 avremo ancora una fase un po' incerta perché non sappiamo bene come andrà a finire. Però l'aspetto più importante credo che in questa fase sia quello di aiutare le banche ad evitare la crisi che hanno attraversato fino ad oggi. Una crisi dettata non solo dalla situazione dei titoli che hanno in portafoglio, titoli del debito pubblico che sono stati svalutati in maniera, hanno subito svalutazioni importanti, ma anche dal fatto che l'attività caratteristica delle banche, cioè il prestito del denaro alle aziende, in questo momento è abbastanza in difficoltà. Quindi l'aiuto che potrebbe arrivare dal Fondo Salva Stati, secondo me, è assolutamente importante. Torneremo a parlare di tutto questo anche perché in settimana tra l'altro c'è un appuntamento con la BCE che dovrà decidere sui tassi che potrebbe influenzare e ci sono altri dati macroeconomici che verranno annunciati in settimana che potrebbero modificare un po' lo scenario. Bentornati a Salva Danaio, abbiamo brindato con il bicchiere vuoto, scrive un ascoltatore al 349-238-6666. Stiamo parlando del vertice che si è concluso venerdì e che ci aveva fatto ben sperare per il successo personale del premier Mario Monti e soprattutto per il successo della sua proposta, quella dell'anti-spread, e anche il fiato insomma un po' tirato dalle banche dopo questo vertice. Siamo con alcuni ospiti a cercare di capire che cosa... come stanno reagendo i mercati dopo questi summit, cosa ci dobbiamo aspettare sia da nei prossimi diciamo 8 giorni fino al 9 di luglio, quando si riuniranno i ministri delle finanze e daranno un po' i dettagli, anche il peso specifico di queste misure. Abbiamo con noi alcuni ospiti che abbiamo avuto modo, con i quali abbiamo avuto modo di aprire questa pagina. Vorrei dare la voce anche a Van Rompuy, perché abbiamo un audio che possiamo far sentire adesso, il Presidente del Consiglio europeo, che ha parlato subito dopo il vertice, così ci aiuta un po' forse ad analizzare quello che è accaduto e soprattutto quello che accadrà. We are not entering into that game, because this is always based on perceptions. Non voglio entrare in questi giochetti, perché sono sempre basati su percezioni. Abbiamo invece ben chiaro cosa è stato raggiunto. Sono stati negoziati molto difficili, durati anche molte ore, e non si possono sintetizzare con la semplice formula vincenti o perdenti. Voglio sottolineare che abbiamo un obiettivo comune, una missione comune, ossia di stabilizzare la zona euro. Per fare ciò dobbiamo dare sostegno ai paesi che sono sotto la pressione dei mercati, ma questi paesi devono comportarsi bene, perché gli aiuti sono sempre legati a delle condizioni, delle severe condizioni. It is always under conditionality. Even under strict conditionality. I giochetti a cui si riferiva il Presidente del Consiglio europeo, come avete probabilmente capito, sono quelli di cui si è parlato sui giornali, poi soprattutto vittoria o sconfitta di Monti, vittoria o sconfitta della Merkel, asse mediterraneo o meno. È vero che Merkel aveva annunciato mentre andava a Bruxelles Eurobond mai finché vivo, e poi invece diciamo ha fatto, non su questo, ma insomma ha fatto delle concessioni che hanno un po' stupito la stampa Germania stessa, in Germania anche in Germania e anche ovviamente nel resto d'Europa. Sicuramente il fatto che Monti si sia dimostrato fermo e deciso nelle sue proposte l'ha fatto apparire come un protagonista, se non un vittorioso. Drusiani, lei diceva giustamente il ruolo della BCE, quanto potrà cambiare, lei si augurava appunto che potesse diventare una banca simile diciamo alla Banca Centrale d'Inghilterra, una banca insomma come la Federal Reserve. C'è un appuntamento il 5 di luglio per la BCE, nel senso del taglio o meno dei tassi di interesse. Ci si aspetta un calo? Questo potrà cambiare qualcosa? L'attesa è che la BCE possa ridurre di 25 centesimi il costo del denaro da un punto a 0,75. Io credo che sia una decisione con un impatto abbastanza modesto sulla ripresa dell'economia, sulle prospettive, sull'ottimismo e così via. Perché il denaro costa già poco ora e non viene richiesto. Le banche faticano a concederlo, quindi anche se lo si porta allo 0,75, anzi le banche faranno ancora più fatica a concederlo. Viceversa, credo che le aziende in questa prospettiva incerta che permane, perché non è che abbiamo superato nulla di particolare, la prospettiva rimane ancora incerta, quindi le aziende difficilmente, gli imprenditori difficilmente faranno dei grossi investimenti in questo periodo, perché temono che i consumi rimarranno su livelli bassi, quindi che potrebbero faticare a vendere la loro produzione. Quindi secondo me un taglio di 0,75, un taglio di 0,25 può avere un senso, può essere un segnale comunque. Soprattutto quello che a me piace sottolineare è che alla guida del nostro paese, cioè il nostro Presidente del Consiglio, e il Presidente della BCE hanno in comune un aspetto molto importante, che ce l'hanno anche con noi, cioè conoscono i mercati, sanno come si deve muovere sui mercati, non sono solo dei politici, al di là del, come sono definiti, dei tecnici, sono persone che conoscono profondamente l'importanza dei mercati finanziari in questa fase, perché come abbiamo visto sono in grado purtroppo di mettere in serie difficoltà governi anche di paesi importanti. Benetti, oggi sul Sole 24 Ore Fabrizio Forchet parla dell'accordo europeo, di quello che potrà accadere, e sottolinea il fatto che Monti si è andato a Bruxelles con una dote, quella della riforma del mercato del lavoro appena approvata, con la sua credibilità. E si augura che questa dote venga portata a termine con i tagli alla spesa, no? Quindi la spending review di cui si parla molto. Questa potrebbe essere un volano per la crescita, per dare anche un po' di fiato ai mercati, quello di approvare, insomma, questi tagli finalmente anche alla spesa? Probabilmente sì, anche se ci sono forse due piani temporali e la crescita di cui stiamo parlando e di cui abbiamo bisogno. Il collega Dosiani ricordava come il grande assente, il convitato di pietra in questi mesi, forse anche in questi anni, è stato proprio il credito alle aziende, l'accesso al credito di famiglie, artigiani, piccole, medie imprese. Quindi questo richiede tempi più lunghi. Nel tempo più corto, che è quello poi in definitiva che nutre i mercati, e questa è la contraddizione un po' nella quale ci troviamo i risparmiatori, anche noi nel nostro lavoro, nel tempo più corto quello di cui si ha bisogno sono segnali importanti, segnali di credibilità. Ecco, in questo senso quelle dichiarazioni di moderato ottimismo che penso siamo legittimati, autorizzati a fare sulla scorta delle notizie di questi giorni, anche i commenti del Sole che lei ricordava. Maria Paola Toschi, dove ci dobbiamo orientare come investitori in questo momento? Perché chiaramente i nostri ascoltatori, che guardano anche giustamente al loro portafoglio, si stanno chiedendo, con questi entusiasmi di venerdì ma anche questo ottimismo di oggi, cosa devono fare. Allora, naturalmente questo dipende molto dai concetti che immagino vengono anche da questa rete più spesso messi in evidenza, quindi temi della propensione al rischio, quindi dipende molto da investitore a investitore, però possiamo individuare alcune, diciamo, linee guida che possono un po' orientare i risparmiatori. Da un lato, diciamo che le azioni, in virtù di questo contesto di incertezza che si era creato soprattutto nell'ultimo periodo, hanno dei livelli di valutazione che in molti casi sono interessanti. E lo ha messo in evidenza un po' anche il rally di venerdì, che è stato indotto probabilmente sia dal, diciamo, scampato pericolo che hanno percepito i mercati, ma anche dal fatto che molti mercati e molti settori erano stati fortemente penalizzati proprio per il contesto di incertezza che si era determinato. Naturalmente non tutti i problemi sono stati risolti con questo summit, e non c'è soltanto la crisi europea con tutte le dinamiche e il contesto tecnico che comporta, ma c'è anche un altro tema molto importante da valutare, che è un po' anche la conseguenza della crisi dell'euro e che stiamo osservando un po' a livello globale, e che si chiama rallentamento economico. Abbiamo visto, osservato che in molte aree, sia soprattutto nell'area europea ma in qualche modo anche negli Stati Uniti, questa fase di incertezza, questa difficoltà a gestire la crisi europea ha anche determinato un effetto un po' di rallentamento del contesto economico, e questo chiaramente è un tema che va analizzato e considerato soprattutto quando si prende in considerazione un investimento azionario. Quindi i mercati in questo momento stanno scontando dei livelli di valutazione molto bassi, quindi c'è del potenziale, c'è del valore, che si è messo in evidenza anche nell'ultima campagna dei risultati delle società, che in buona sostanza ha messo in evidenza anche un buon contesto fondamentale delle società. C'è un po' un punto interrogativo, nel senso che i mercati stanno anche scontando il rischio che ci possa essere una fase di rallentamento oppure una ripresa un po' più lenta di quelle che erano le aspettative, sia in Europa sia negli Stati Uniti sia nel contesto dei mercati emergenti. Quindi interesse sui mercati azionari. Noi abbiamo una, diciamo, preferenza forse per l'area degli Stati Uniti, però in questo momento abbiamo anche riconsiderato l'area europea proprio in virtù del fatto che era stata fortemente abbandonata anche dai gestori a livello globale, quindi era molto poco presente nei portafogli, quindi c'è un buono spazio di recupero. E chiaramente, se questo, diciamo, risultato del summit è il primo passo per un processo più coordinato di rilancio della zona euro, ci potrebbe essere veramente ampio potenziale legato proprio all'area europea. 349-238-6666 per mandarci un sms. Drusiani mi faceva dei segni perché voleva intervenire. Proprio una brevissima polemica, sì. Sulle lacrime di coccodrillo degli Stati Uniti. La crisi d'area euro è la crisi che gli Stati Uniti hanno trasferito in area euro, perché il rapporto debito pubblico americano non è che sia molto migliore dei nostri. Però c'è una differenza fondamentale, che gli Stati Uniti hanno una sola banca centrale che interviene continuamente. Noi che ne siamo completamente sprovvisti dal punto di vista tecnico, purtroppo siamo soggetti ad attacchi ai quali stiamo assistendo, quindi la crisi nasce anche da loro, soprattutto da loro. Sì, perché il debito degli Stati Uniti, insomma, è molto certo. alto. Ne abbiamo saputo qualcosa quando il Congresso ne ha parlato e ha cercato anche di mettere in difficoltà Obama su questo, ma poi non se ne parla mai perché appunto... Sono le elezioni adesso. Adesso sì, certo, ci sono le elezioni per motivi politici, però certo l'attenzione è molto spostata sui debiti sovrani dell'Europa. Voleva dire qualcosa, Benetti? No, sono d'accordo, proprio ed è uno degli elementi di debolezza. Certo. Dell'Europa ed è uno dei motivi che ci fa salutare con entusiasmo il risultato del vertice dell'altro giorno è proprio questo. Gli Stati Uniti hanno un debito, un rapporto debito pubblico e PIL intorno al 102%, l'Europa è inferiore al 90%, 87 rotti mal contato. La differenza è che gli Stati Uniti hanno una banca centrale e un presidente, noi abbiamo una banca centrale e 17 numeri di telefono. Appunto, sì. Se recuperare un linguaggio di verità, una governance europea, questo ridarebbe all'Europa molta credibilità, molta più credibilità. E certamente oggi siamo, per riprendere la copertina dell'Economist del 2005, siamo l'Europa è il malato del mondo. Quando invece, voglio dire, 102 la febbre degli Stati Uniti, lo ricordavano. O 147 il rapporto debito-PIL certo. dell'Inghilterra e 200% del Giappone. E infatti anche l'Inghilterra è un altro caso interessante. Maria Paola Toschi annuiva. No, volevo solo aggiungere che assolutamente sono d'accordo. C'è un altro elemento che differenzia gli Stati Uniti dall'Europa che si chiama crescita proprio, quindi uno degli elementi su cui poi si è anche incentrato il summit. Quindi negli Stati Uniti è vero che c'è stato questo rallentamento del momentum economico che è stato evidenziato dalle ultime statistiche, però parliamo pur sempre di un paese che potrebbe quest'anno crescere intorno al 2% in virtù anche di tutta una serie di meccanismi e situazioni di maggiore elasticità che sono presenti in quel paese. Per questo è così importante riportare anche l'attenzione sul tema della crescita e non solo sull'austerità in Europa, perché senza crescita, che poi ovviamente è difficile da individuare, da articolare con misure concrete, però senza crescita anche il tema della deleveraging, ovvero di riportare i debiti in rapporto al PIL a un rapporto sostenibile, se il PIL scende chiaramente diventa tutto molto più complicato. Quindi per questo dicevo anche che la presenza di nuovi leader è stata molto importante, perché ha riportato il tema della ricerca di opportunità di crescita in Europa, che diventa fondamentale per paesi in particolare che hanno dei tassi di disoccupazione che sono estremamente preoccupanti in alcune aree. Drusiana, mi voleva aggiungere sì, qualcosa? Semplicemente questo. La signora Toschi giustamente ha sottolineato come negli Stati Uniti ci sia una ripresa. E qui ancora di più il ruolo delle autorità americane, le autorità finanziarie, assume un vigore importante, perché la svalutazione continua del dollaro nei confronti dell'euro, in una situazione in cui paradossalmente l'euro rimane forte, in una fase in cui sembrerebbe che salti, fa capire come le autorità americane vogliono un dollaro debole per aumentare le loro esportazioni. Che era il discorso che facevamo prima della trasmissione, quella sull'euro e sul dollaro. Ci dobbiamo interrompere brevemente, la discussione è chiaramente interessante, abbiamo anche un ascoltatore che ci aveva chiamato e a cui vorrei dare la voce, ma mi dicono adesso è caduta la linea, speriamo che richiami. Parlavamo, Benetti, della possibilità di investire in obbligazioni in questo momento. Sì, con una grande attenzione, perché le tensioni, le preoccupazioni sull'esito della moneta unica hanno portato molti investitori, molti risparmiatori a guardare con favore titoli di paesi cosiddetti sicuri, la Svizzera, la Germania, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti. Però bisogna fare attenzione che il rendimento finale che interessa all'investitore è il rendimento reale. I titoli di questi paesi, proprio perché c'è stata una corsa alla sicurezza, danno rendimenti reali negativi. Rendimento reale negativo vuol dire distruzione di potere di acquisto. Fra un anno io con questi denari compro meno rispetto a quello che posso comprare oggi. Distruggo il mio risparmio. Quindi la sicurezza ha un costo. Probabilmente c'è stata una corsa anche non giustificata. Può essere interessante diversificare un portafoglio, visto che siamo in un ambiente ostile all'investitore tradizionale, diversificare il portafoglio con le obbligazioni societarie, con le obbligazioni anche dei paesi emergenti, in valuta locale ma anche in valuta forte, l'euro-dollaro, perché troviamo rendimenti reali positivi. Naturalmente è sempre bene farsi accompagnare da un esperto, da un consulente o da veicoli di investimento collettivo e non polarizzare il rischio su un singolo o pochissime emissioni. Certo, Maria Paola Toschi, su questo, sull'obbligazionario. Sì, direi che è un tema assolutamente importante, perché in passato probabilmente i nostri risparmiatori, i medi italiani, erano abituati ad avere, diciamo, un portafoglio con una grossa componente di BTP e poi magari diversificavano sull'azionario, che era un po' la strategia classica. Però ormai questa strategia è un po' superata, perché i principali e forti cambiamenti che ci sono stati negli ultimi anni hanno interessato soprattutto il mondo obbligazionario. E quindi è importante cambiare un po' punto di vista proprio per costruire un portafoglio obbligazionario che sia molto più ampio e diversificato. E in particolare vada proprio a ricercare quel rendimento di cui parlava il collega, che in alcuni mercati cosiddetti porti sicuri ormai non c'è, o comunque è un rendimento reale negativo, andare a cercare un rendimento però con una giusta composizione e combinazione di rischio, quindi non essere eccessivamente esposti magari verso paesi che hanno dei rendimenti molto elevati ma ancora una elevata, diciamo, componente di rischio legato al fatto che stanno portando avanti dei processi molto articolati di riassetto, di appunto ristrutturazione. Quindi la nostra idea è di essere molto più diversificati, andando anche a considerare delle asset class obbligazionarie, per esempio nel mondo delle società. Ci sono molte società che hanno degli ottimi fondamentali e dei buoni livelli di rendimento, e andare a ricercarli anche nel mondo emergente, che è un mondo che da questo punto di vista offre molte opportunità, perché ci sono tanti paesi che hanno dei bilanci molto, diciamo, anche più solidi rispetto a quelli dei paesi sviluppati, che hanno in corso anche delle strategie molto interessanti, per esempio in termini di controllo dell'inflazione, anche delle variabili monetarie, cosa che invece in passato non c'era. Quindi paesi che stanno molto crescendo dal punto di vista della qualità delle emissioni e che hanno dei buoni rendimenti, dei buoni fondamentali, e quindi sono delle, diciamo, asset class da considerare in questo sforzo di articolare maggiormente proprio il portafoglio obbligazionario, cercando di andare a cercare un buon bilanciamento di rendimento e di rischio in vari portafogli, in vari asset class. Abbiamo un'ascoltatrice in linea, Emi da Milano, buongiorno. Pronto? Sì, le chiedo di abbassare il volume del telefono perché si sente chiaramente, scusi, il volume della radio. Un attimo, Emi, scusate. Va bene così? Sì, va benissimo, ci dica. Io volevo fare una domanda semplicissima. Noi conosciamo tutti perfettamente i problemi del bilancio dello Stato, da cosa è causato, da questo e quello, dai vari sprechi e compagnia. Una cosa che ci domandiamo in continuazione è come mai le banche sono eternamente in sofferenza. Chi provoca la sofferenza delle banche? Se uno ha un conto di corrente attivo non gli danno un centesimo di interesse. Se deve chiedere un mutuo fanno 10.000 difficoltà, non fanno credito alle aziende, non pagano l'IMU. Come si spiega questa sofferenza delle banche? Va bene, grazie, la ringrazio molto per questa domanda, che insomma in effetti l'uomo della strada se lo chiede, come mai le banche sempre in sofferenza? No, sempre in sofferenza solo negli ultimi tempi, quando hanno indirettamente dovuto sostenere il debito pubblico, quindi le banche hanno destinato gran parte alla liquidità che hanno ottenuto ad esempio con i prestiti da parte della BCE ad acquistare titoli di Stato del proprio paese, l'Italia in primis, quindi le banche italiane hanno nel proprio portafoglio moltissimi titoli di Stato italiani, quindi hanno sofferto a livello di bilancio. Perché non danno, perché fanno pochi prestiti? Perché temono che chi riceve questi soldi fatichi a restituirli. Quindi questo è un meccanismo abbastanza anche normale. Purtroppo mi rendo normale, conto normale, però poi crea, certo, difficoltà, sì, nei però crediti. Da un punto di vista di chi gestisce la banca, evidentemente queste difficoltà compaiono. Però il problema principale è sicuramente legato al fatto che hanno dovuto sostenere indirettamente i titoli di Stato italiani, da noi, gli spagnoli, in Spagna e così via, con ripercussioni negative sui bilanci. Quindi chiaramente Amy riportava quello che probabilmente si dice nella maggior parte delle case, dei mercati in Italia, no? Questi aiuti continui alle banche, si sente sempre parlare di difficoltà, ma giustamente Luciani ricordava è anche stato un modo di rifinanziare il paese. Il problema fondamentale è che se i titoli non fossero stati collocati, i rendimenti di oggi superiori al 6% sarebbero a livelli ancora più alti. Con conseguenze per tutti. Per fortuna che le banche in qualche modo li hanno comprati. Maria Paola Toschi voleva dire qualcosa. Volevo appunto aggiungere, poi ha già detto chiaramente il collega, però forse magari non a tutti gli ascoltatori, perché è normale che sia così, è chiaro che quando salgono i tassi, quindi salgono questi spread di cui parliamo quotidianamente, significa che i valori, quindi il valore di questi titoli scende, quindi questo significa che i portafogli che avevano le banche pieni di questi asset hanno perso valore. Perdendo valore, queste banche sono più fragili e sono meno anche disposte a concedere dei prestiti a un settore privato che in questo momento sta anche avendo delle difficoltà, perché questo significa che potrebbero avere, diciamo, come conseguenza un aumento delle sofferenze sul portafoglio, che sono già aumentate molto secondo i dati, insomma, di Banca d'Italia, sono più alte del 10%, quindi comunque un livello elevato. Quindi è, diciamo, tutto un processo naturalmente che si innesca in queste situazioni di difficoltà, e direi che un po' la chiave di volta è ricostituire anche un clima di maggiore fiducia e di maggiore stabilità, che può essere la chiave proprio per rimettere in moto un po' l'attività di prestiti, che poi è fondamentale per la crescita, però in un contesto di maggiore tranquillità anche per le banche, che non possono, diciamo, rischiare di esporsi eccessivamente a un settore e quindi diventare ancora più vulnerabili e più fragili. Carlo Benetti, vuoi aggiungere qualcosa? Ma mi viene in mente una battuta di Willie Sutton, che è un famoso rapinatore di banche, che si dice che al giudice che gli chiedeva ma perché continua a rapinare banche, che poi vieni preso, messo in galera, rispose ma perché è lì che stanno i soldi. Ora, questa non è un'istigazione, naturalmente, quanto un invito a prendere la battuta per il risparmiatore, per l'investitore, dire metti il tuo denaro dove c'è valore. E quindi riconoscere, abbiamo citato alcune asset class, settori, cioè cercare di lasciare l'emotività del breve periodo, le borse che fanno più 2, meno 2, 85, come è successo a Milano qualche settimana fa, e cercare di cogliere la creazione di valore nel medio tempo, che se si sa guardare con attenzione, queste occasioni per fortuna ci sono. Quindi evitare la tattica, insomma, pensare più a lungo, medio periodo. E proprio per questo io vi invito, e lo faccio in chiusura, a guardare il martedì e il venerdì, a prendere il Sole 24 Ore, che forse vi può aiutare con alcune pubblicazioni. È iniziata questa iniziativa venerdì scorso con un libretto del direttore del Sole 24 Ore napoletano sulle parole chiave per uscire dalla crisi. Quest'estate con il Sole 24 Ore potete trovare tutti i venerdì la grande crisi, quindi i grandi temi dell'economia raccontati dalle firme del Sole 24 Ore, il martedì la tua economia, quindi come affrontare nel piccolo, anche nelle piccole strategie di tutti i giorni che ci troviamo davanti, come affrontare questo difficile momento. Questo il venerdì e il martedì sul Sole 24 Ore. Io ho pochissimo tempo ancora e quindi devo salutarvi. Saluto i nostri ospiti che sono stati con noi, saluto e ringrazio anche Marco Lombardo in redazione e Matteo Comes in regia. Salvadanaio torna domani.